tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, siamo a una nuova edizione del notiziario anticlericale. Nunzi papali Palponi, dal Fatto Quotidiano del 18 dicembre. L'ex nunzio in Francia, Monsignor Ventura, sotto indagine a Parigi, si è dimesso. Dall'Argentina, Fatto Quotidiano del 18 dicembre. Sacerdote, era accusato di 5 casi di violenza sessuale. Si è ucciso poco dopo l'ordine di arresto. Suicida il parroco, stupratore di scout. E la tarda serata di lunedì a La Plata, provincia di Buenos Aires, Argentina, quando l'arcivescovo della comunità, Victor Manuel Fernandez, diffonde l'orazione tra i fedeli. Il parroco si è suicidato sparandosi negli uffici della Caritas. Preti pedofili. Il Papa abolisce il segreto. Dal Quotidiano Nazionale del 18 dicembre. La rivoluzione di Francesco, vescovi obbligati a consegnare i dossier alle autorità civili. Pedopornografia fino a 18 anni di età. Scelta coraggiosa ma obbligata. Preti pedofili, il Papa cancella il segreto pontificio sui processi. Dal Fatto Quotidiano del 18 dicembre. Linea Francesco, decisione storica, ora cause più facili per gli appartenenti al clero accusati di pedofilia. Rete l'abuso, è un passo notevole ma non basta, sarebbe importante che le nuove norme fossero retroattive. Dal Fatto Quotidiano del 19 dicembre, la parrocchia degli abusi, l'effetto domino dopo la svolta del Papa. In Germania, Don Peter, ex educatore Cenisius College, in Italia Franco Castagneto, parroco di Genova, in Australia George Per, cardinale, c'è una bella piantina con tutti i preti pedofili. Al Corriere della Sera del 19 dicembre, parroco accusato di abusi sessuali, il PM chiede atti alla diocesi di Genova. E su Bell'Italia, il mensile del dicembre 2019, l'esuberante tela del Veronese finita nel tribunale dell'Inquisizione. Doveva essere un'ultima cena, la grande opera dipinta nel 1573, ma l'Inquisizione veneziana la giudicò blasfema e l'artista fu costretto a cambiarne il nome in convito in casa di Levi. Abbiamo poi 8.000 euro per i voti dell'Endrina in Piemonte. Arrestato l'assessore clerico fascista filo crocifissi Roberto Rosso, dalla Repubblica del 21 dicembre 2019. Abbiamo poi dal Varesotto, sulla Prealpina del 21 dicembre, gli abusi in oratorio. Eva Sacconago ora riposa in pace. Confermata in Cassazione la pena di 3 anni e mezzo alla suora maniaca, che addirittura, come risultato agli atti processuali, la ammanettava per violentarla. Siete almeno un po' rincuorati, chiedono i giornalisti ai familiari. È l'ultimo atto di una storia che ci ha visti combattere per 21 anni contro questa suora e che da 8 anni ci fa soffrire per la perdita di nostra figlia Eva Sacconago. Finisce il processo, c'è almeno una condanna. Sacerdote maniaco a Ercolano, in provincia di Napoli. Arrestato sacerdote per abusi sessuali su una 30enne disabile, dal Fatto Quotidiano del 21 dicembre, accusato di violenza sessuale continuata. Vedremo poi come va a finire. Denunce tsunami, la Chiesa inondata dai casi di pedofilia, Fatto Quotidiano del 21 dicembre. 1.000 denunce di abuso di sacerdoti, 6.000 procedimenti aperti dal 2001, 848 preti ridotti allo stato laicale. Vaso di Pandora. Abbiamo poi dal 7 giorni, giornalino della provincia di Milano, 12 dicembre, rinviato a giudizio prete, travolse e trascinò con l'automobile una giovane mamma procurandole lesioni gravissime. Abbiamo poi buone notizie da Ascoli, Montalto nelle Marche, il monastero delle suore chiude dopo 400 anni, inutili le 500 firme raccolte dai cittadini. non ci sono più religiosi. Ah, ottime notizie anche da Cislago in provincia di Varese, chiuso il museo dei presepi, riaprirà forse l'anno prossimo. A San Vittore Olona in provincia di Milano rubate le statuine del presepe in piazza, furto sacrilico a danno del presepe in piazza Cardinal Ferrari. Poi il Fatto Quotidiano del 18 dicembre riporta un nuovo libro sulla rivista anticlericale L'Asino. È un testo di cui sicuramente ne riparleremo nelle prossime puntate. Abbiamo poi Roma, manifesto blasfemo. Il museo comunale lo rimuove. Esposto al macro, la denuncia dei clerico-fascisti Tajani e Meloni. L'assessore alla cultura subito corre dietro, non è arte. E così la provocatoria opera artistica viene rimossa. Dalla Prealpina del 21 dicembre, che fa un riassunto dei fatti dell'anno, il matrimonio in chiesa non va più di moda. Nei primi 3 mesi del 2019 a Varese 25 a 1, 25 matrimoni civili contro uno solo religioso. Ricordiamo la ragazza di Busto indotta al suicidio, la ragazza di Varese assassinata dai Cellini. Sono tutte cose che poi si pagano perché tra i giovani si diffondono le notizie di questi crimini clericali, quindi evidentemente nessuno vuol più avere a che fare con i preti. Bene, saluti anticlericali di un buon 2020, saluti a tutti.